Ecco, avanti. Buonasera a tutti, Marco. Che microfono è già? Sono curioso. La Static. No, no, quello da 9,90 che sta facendo scalpore. Mai visto un prezzo del genere. Midland, vai sul sito della Midland, seconda pagina, e lo trovi. Si chiama Midland 1000. No, 100, non 1000, 100. Mi sa che F100, boh. Ah, ho capito, come mai questi super sconti? Ma cos'è la Midland? Sta cominciando a chiudere. Ciao Marco, ha scontato del 76% mi sembra. Infatti ho detto, ma ce li giochiamo, ne ho preso due, una a me e una doppio room. Quindi propagazione c'è. Costavano oltre di 50 euro prima. È buono, buono. Chi l'ha scovato? Chi se n'è accorto? Franco per primo. Sì, l'ha trovato Franco, infatti ha detto prendilo anche a me subito. Sì, ce ne saranno ancora, ovvio. Sì, ma lui ci sono, vabbè, non vedo definizione, circa, ce l'abbiamo divisi. Breche. Avanti. Un controllino di Radio Santiago, grazie. La radio c'ha un po' di effetto camera. Se Santiago prova. 1, 2, 3, prova di moduliccio. 9,25, dai. Quasi 9,30, sì. 9,28, per esattezza. Chi sei, Tonino? Ehi, capo, e adesso com'è? 1, 2, 3, prova di modulazione. Questo effetto camera, boh, di vuoto. Non so se gli altri ti sentono così. Io sto usando il voice, non so se sia il tipo di ricezione. Avanti, Carlo. Sì, un po' di vuoto, però è pulita la radio e si sente bene. Il segnale qua ce l'ho fondo scala, Tony, la radio già è buona, però fa questo effetto vuoto sotto, però non è niente di che. In questa moto a cui c'è autocircolare anche gli altri amici che ci sono, non so chi c'è, ripeto. Bene, Nieda. Comunque confermo anch'io, c'è quell'effetto un po' di camera vuota, Vabbè, comunque l'importante è che li sentite bene poi. No, benissimo, tranquillamente. La radio 5, c'ha solo quell'effetto di camera vuota, come dicono loro. Microfono, che microfono è tu? È un microfono che sto provando, di nuovo un altro microfono. È Super Sidekick. Non è da tavolo, ma è da sedia. Ma è Sidekick? Eia. Kappa. Con cosa lo stai provando? Col gas? No, lo sto provando con un altro apparato, con un 23 CB 800. Se lo metti, ma sul garage va bene l'attacco. È tutto diverso, non è saldo più di nuovo, ho le scatole piene. Non è provato l'attacco, ho capito, va bene, là. Comunque già si capisce bene. Ti ho detto, c'è questo effetto vuoto perché io sono gubignolo, ti dico tutto come. Avanti, Carlo. Buonasera Marco. Ti sei ripreso dalla, diciamo, nottata insonne? Ciao Tonino, sì, confermo quello dicono gli altri anche. Siamo in effetto come distanza, leggero però, non è fastidioso e non è rimbombante tipo grotta, capito? Eia, ripreso tra virgolette, dai, non è che abbia proprio dormito. Di giorno non riesco, già mi rifaccio stanotte. Guardate adesso se si sente quell'effetto camera vuota. Ciao Marco lì comunque. No, non è camera vuota, è come un distanza, come se fosse distante un metro e mezzo, due dal mic. Però la radio è buona, è ottima, direi ottima. E forse la batteria, cioè che cambia la batteria, dipendente. Quindi se si avvicina va meglio. Ciao Marco, com'è la mia la radio? Come la fa? Tony, prova a avvicinarti prima di cambiare la batteria, e forse sei troppo lontano come stai parlando. Marco, vai. Guarda com'è la mia radio. Buona Natalia, buona, ottima. Naturalmente se c'è TV o voci di fondo le amplifica però. Il channel più 3 questo è, dai. Guarda adesso com'è, 1, 2, 3, prova di modulazione. A me sembra un tantino meglio. Però stava già iniziando a innescare un po'. Forse deve abbassare un po' il macchinario e avvicinarti di più al microfono. Guarda questo passaggio, 1, 2, 3, prova di modulazione. Io direi bingo. Sì, bongo, blocca tutto. Cicabù, cicabù, bum bum. e la batteria comunque può scaricare. C'è una Tatarino. Ah, Tonino, fica così, Tony, che già va bene. Capa, lo lascio così allora. Gianni, da te? Sì. Prova a fare un passaggio lungo. Ok, 1, 2, 3, le caramelle le comprate, sì, ciuppa ciuppa e le calecca. Ok, va bene, il passaggio così lungo. Sì, sì, adesso va più bene. Avvicinati a parlare di più al mic a vedere. Così, troppo vicino sono forse così. Così va meglio, te più vicino ti devi mettere, va molto meglio, ti ingrossa un bella voce. Scusate mio. Scusa, sei un preamplificato, perché mi devo avvicinare? Mica è mai che normale, raga. Allora, se tu ti allontani ti fa l'effetto camera, se invece ti avvicini l'effetto camera sparisce e la voce diventa più grossa, diciamo. Là. Comunque è buona come amplificazione? Sì, sì, già va bene, ma al massimo sì. Penso di sì. No, non aumentare più che sta sennò innescami. Ehi, cappa. Sta già innescato. Adesso no, però, l'ho abbassato un po'. Vedi, hanno sempre quel difetto quel microfono Vittori. Anche il mio io l'ho venduto per quello, perché lo mettevi vicino all'apparecchio e non escava, lo mettevi sulla coscia e non ne escava più. Boh. Impazzito sono, l'ho aperto, fatto, vabbè, le lamelle le ho messe tutte a posto, perché aveva le lamelle che non toccavano bene, e le ho messe a posto e funzionava. Poi lo chiudevi e faceva difetto. Alla fine mi sono rotto le scatole. Vabbè, dai, lasciamo così, cioè, va bene. Meremeda, Carlo, tu sei a casa tua, sì? Sì, oggi a casa. Toglimi una curiosità, Tony, ma antenna nuova hai messo, sì? Eia, una Mantova Turbo. Adesso siete tutti fondo scala. Tutti, Natalino mi arriva a fondo scala, tu, Gianni, idem, Franco, qualcun altro no, Luca Ariello mi arriva anche lui fondo scala perché è vicino a casa, capito? Los Atros ce li ho Santiago 9 così. E adesso com'è? 1, 2, 3, sto provando qualcosa. Dimmi se va meglio di prima. Va bene, Radio Super 5 segnale qua a fondo scala che equivale a un 9+30. Chi è più lontano? Marcolino, come ti arriva a te? Allora, smettere a LED 6 sul più 30, in tutti e due passaggi, di più non va. Cappa. E Natalino? Fondoschiena. Ah, che bellino fondoschiena. Gianni, a te non te lo dico neanche, dai, tanto, ti arrivava anche prima, era sempre buono. E appunto, 9.30, sì, dai. KK, c'avevo il filtro poco fa, 9.30 sì, di più non va, magari andrebbe anche di più, ma non va di più, più di 9.30 non segna questo smitter. Comunque già è buona la radio tu di adesso, dai, come stai parlando adesso mi piace. Poco fa c'avevi un effetto di vuoto, di effetto camera, dai. Franco, avanti. Sì, no, qua è oltre il più 30, qua è oltre addirittura. Quindi arrivo molto meglio da te, giusto fra? Qua non ti ricordo, stai arrivando più forte di Natalino che ce l'ho vicino, eh. Addirittura? Sì, Natalino è sul 30, tu stai passando il 30, ce l'hai passato. E vabbè, qualche whisky in più c'è, dai. Scappa, sì, si vede, però la radio è perfetta, non rovina niente. E io quanto ti arrivo fra? Anche tu adesso sei oltre il 30. Aspetta che vi attenuo un po', metti la portante. Anche io? Prima uno e poi l'altro, vi porto a 9. Dai, 1, 2, 3, ti metto la sua portante. A posto? Sì, adesso sì, Santiago 9. Prova Gianni. 1, 2, 3, 4. No, Gianni arriva a 9.20 così, con l'attenuatore. Gianni, stacca. Ti arrivo. Attenuatore. Due, dai, due. Però l'attenuatore è quasi a manetta. Ma io non ci ho vatti, ho visto. Sono sempre con gli apparecchi della mutua. Così, senza attenuatore sei 9.30, quindi già è un segnalone. Aspetta, a parte Carlo, parlate tutti assieme a vedere chi passa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. No, io non stavo parlando. Gianni, non vale, devi parlare anche tu. Comunque è passato Tonino. Ma no, sei a casa tua o a casa di... Io sono a casa mia. Ah, non sei in altro QTH, no? No. E qual è altro QTH? Non ne ho io amanti che... Guarda per il suo passo, guarda, fra Marco, guarda per... Tre Gianni. Allora, tra Gianni e Tonino non passa nessuno dei due, un po' si sovrappongono tutte e due le modulazioni. Carlo non lo faccio parlare che è a 200 metri, rischiacerebbe tutti. E qui passa Gianni. Gianni, di la verità, stai pompando? Oh, sì, dimmi se lo passa Gianni adesso, Franco, 1, 2, 3. Ma va, piacere. Dai Gianni, prova a parlare, 1, 2, 3, che adesso cerchiamo di aumentare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimmi fra come va. Comunque non si capisce niente, sono fracavallati di casino. Ah, vedi? Eh? Ma non vale ciò attaccato. Sono in campagna, mi guai, se vado a mettere a Sassari. Qua è migliorato, Tony, con l'antenna nuova, perché diciamo è più forte il segnale, arriva qua a fondo scala e sì, con Gianni praticamente tu parlavi e poi quando parlava Gianni sentivo anche Gianni e più o meno si equivalgono, ma Gianni qua sempre forte mi arrivava. E K, io sto cercando una casa sul grattacielo per essere più forte ancora. E il cane non li vuole, ne ha più. E l'antenna volevo sopra, non ti preoccupare. Adesso mi sto facendo arrivare un miliardo da 2000 watt. Lei le ringrazia allora. K, già metto il gruppo elettronico, lo faccio prima. Ah ragazzi, l'ultima la sapete. No, se non ce la dici. Che le società telefoniche possono aumentare senza preavviso le bollette, già ce ne sono due o tre che stanno aumentando, che hanno già aumentato, le altre possono farlo fra qualche mese o giù di lì. Si aumentano le bollette senza preavviso, quindi bisogna essere attenti, dare la disdetta subito, lui almeno se la prendo tutti nell'occhio. Ma io luce non le pago, quindi non me la fotte nulla. Tu pensa che tengo 2000 watt acceso per scaldarmi la sera, la notte, fino a domani mattina, fisso. Se vede di cassa la bolletta la tiro giù in bagaglio. Oh, non penso proprio, no. Chi è che ha fatto? Qualche mucca, qualche guru. A me sembrava uno che lo stavo dicendo in radio. O in banda laterale. Sì, mi sembrava in banda laterale. Pari una mucca. Cappa. Il vento che li porta. Comunque devi capire una cosa Gianni, che io sono in campagna, tu sei un palazzone e quello vuol dire molto. Io sono lontano, più piccolino di tutti, però mi faccio sentire bene, dai. Ma nessuno ti ha detto il contrario, Tony. Ma siamo uno attaccato all'altro, le prove bisogna farle, come dice Claudio, sulla distanza. Io sono più lontano di tutti. No, dico parlando, non so, con Alghero, che io neanche li sento quelli di Alghero io. Almeno dovrebbe sentirmi meglio. Natalino, cosa stai facendo? Mangiando? No, lei è cattivo. Non ho capito. Chi è che mi ha chiamato? Chi è? Io ti ho nominato, là. Ah, buonasera. Ho detto che, come dice Claudio, le prove si fanno lontane, con la distanza, non a state che siamo attaccati. Sì, beh, avete detto a fondo scala. Chi è che vuole controllare avanti? Chi è? Ciao Claudio, come ti arrivo io qua? Prova. 1, 2, 3, prova. Una bomba, 9 più 10. Sono liscio però, eh. 9 più 10, radio super 5. Complimenti. Grazie. Poi, avanti un altro, come dice Bonolis. Dallo dottore, sì. Avanti un altro. Io come ti arrivo, guarda a me, guarda come ti arrivo io con lui. Lui c'è un brutto buco, 9 più 20. Radio super 5. Gala, va bene, e lui ha confermato. Gamba la radio, lo sai, sempre la mia preferita del vintage. Avanti un altro. Ciao Claudio, buonasera. Una matta tenevaria, 9 più 30. Imbroglione, Carlo, il vicino. Imbroglione, ragazzi, imbroglione, vai una certa ottava, vai, maledetto imbroglione. Avanti un altro. Avanti, Tatalino. Tatalino, ancora più basso di tutti, siete a cappelle, a Santiago 9. Più basso di me, vabbè, io sono qualche whisky in più, Tu sei a Giumai, quanto è Torino? 9,5. Però ripeto, c'ho qualche cosa in più io. Ti sto facendo il furbo. No, lo ammetto. Devo superire l'antenna che non è sul tetto, capito? te lo metto anche io, quindi primo Carlo, secondo Gianni, terzo Bonino, quarto buonanotte, e ultimo Tattarino senza capelli. E Marcolino? Cari Marcolino, lo sento, avanti un altro. No, io ho 5 watt in antenna, non provo nemmeno. Anch'io ho 5 watt, sei quante Gianni tu? Anch'io sono con 5 watt, guarda. No, io dico sul serio, in antenna, sono 10, più il filtro me ne toglie 2, più di mezza la potenza con tutto il capo, più il danno che hanno fatto. Col giunto, metà watt arrivano in antenna, 5 watt in antenna. Una bomba, provate a parlare due Gianni assieme, vediamo. Gianni c'ha più radio, allo grebo, dimmi che lo grebo, no, non è possibile, Gianni c'ha più radio. Che hai detto allo grebo? Boh, io. Facci tu. Io? Oh, boh. Eppure Gianni c'ha un bel più radio, mi di modulazione. Ma io ho sentito allo grebo. Magari l'ha detto anche lui. Gianni, cosa hai detto tu? No, io non l'ho detto, sì, tu l'hai detto. Io sono con 5 watt adesso, comunque ho la static come microfono. Magari sei più vicino tu, Marco, quello è il problema, che tu sei più vicino, sei quasi vicino a Carlo. No, ma qua non ce l'hai vicino o lontano, no. Io non lo so se non lo vedo, quindi togliete dalla testa che nessuno può essere vicino a me. Non ne ho apertura per Sassari io, assolutamente. Siete tutte arrivate molto tutti bene. Tonino è quello più vicino a me, diciamo, verso il costone di Monte Bianchino praticamente, con la zona lì. Passa in mezzo, infatti c'è un 9 più 10 pieno per avere i watt che c'ha, va bene. Voi che siete molto più distanti, soprattutto tu Gianni, e c'hai un segnalone di questi giro, mi intendi, segnalone. Se fai la proporzione con Carlo è molto più vicino a me, stai arrivando più forte tu. Vabbè, comunque è interessante che ci sentiamo bene, non è quello il problema. A me fare le gare non mi è mai piaciuto. È interessante che arrivi bene, che non ti dia problemi l'antenna da voi, il resto non mi interessa. Avanti Tonino. Gappa, sto ascoltando, io sono il più piccolino. Vabbè, in base alla mia posizione non posso pretendere, avuto palazzo come il tuo, già, era diverso, ho capito. Comunque, nel mio piccolo riesco a farmi sentire abbastanza bene, quello mi interessa. Ah, va bene, cosa dice la mente? Va benissimo. Vai bene Tonino, sei 9 più 10, sono segnali più alti che io sento, sono quelli sempre i soliti vostri. Andate tutti bene, tutti, no Gianni, non è un problema di potenza, è giusto per farvi capire la distanza che c'è tra me e voi, arrivate bene, molto bene. Carlo è quello forse più alto di tutti e quindi qua riesce ad avere un segnale più alto del vostro, però sia il tuo, quello di Tonino, quello di Marco vanno alla grande, siete più o meno tutti lì, dai, non è che cambia niente. Va bene, un abbraccio a tutti, segnali migliorati, mi avete chiamato, vi ho risposto, io sono sempre in ascolto. Buonasera a tutti, baci e abbracci, avanti un altro. Vorrei farti sentire di tanto. Sì, mi faccio sentire, io sono sempre in radio, vi ascolto sempre, anche in cuffie, vi ascolto tutti i santi giorni, solo che se mi chiamate io piglio la portante, se non mi chiamate rimango zitto. Io a volte vi ascolto in quell'altra frequenza, con la frequenza dei zingari. Dai, c'è tu e altri amici. Tutti zingari sono lì, tutti zingari. Con buone iniziative però, dai. Tutti zingari siamo, capito? Siamo tutti zingari. No, adesso se non sentite stiamo facendo le prove in DMR, quindi in digitale, in UHF, quindi siamo un po' assenti dalla frequenza molto, lo dico per gli SWL, oppure transitiamo un po' sui ponti, su queste cose così. Va bene, di nuovo baci e abbracci a tutti, segnali migliorati, statemi bene e fatevi una buona serata. Avanti un altro. Ciao classi, sentiamo, dai, buon corso, ascolto. Attenzione che ascoltando un orecchio ti diventi più grande dell'altro. Porca miseria, già, devo stare attento davvero che non divento orecchione, dici. No, perché tu se ascolti con un orecchio a noi e l'altra parte l'ascolti senza cuffia, ti diventa più grande a fila di ascoltare. Vabbè, pazienza. No, io sono abituato a accendere tutte le varie. sono anche da altre parti, no? Però ho abbassato il volume, no? Qua vi ascolto tutti i santi giorni, so che c'è gente, siete sempre gli stessi, quindi mi fa piacere, non è un problema. Solo sentito Claudio e ho detto, ah, chi è che mi sta chiamando? E allora pigiato la porta. Ciao a tutti, avanti a chi tocca, avanti un altro, Carlo. Ciao Claudio, già ci sentiamo, quando capita bussa che ci facciamo quattro chiacchiere. Ciao, ti lancio il caro amico Bastianino. Che è Bastianino? Tanto ricoglionendo ti stai, non c'è andare, no? No, un Bastianino c'era in fondo, sono Bastianino. Avanti Bastianino. Fede Panino. A me è vincato Bastianino. Ma c'era Bastianino come mio cugino. Voleva dire Natalino, ha detto Bastianino. Un attimo il Curix per me, sono alla bassa, a dopo. Sarei troppo sciolto la tromba, non mi... Cavagala. Vabbè dai raga, che mi sposto, ma non sono in radio adesso. Ora fermo la luce perché eravamo quando tutti fuori e sono stanco molto. A rinfrescarmi che ho le orecchie tappate. Ehi, vai a docciarti. Avanti Carlo, ma davvero c'era questo Bastianino? Aspetta se ci risponde. Avanti sul canale 10. Io ho sentito questo Bastianino sotto. Scusate che tanto saluto Claudio, saluto anche alla famiglia. Avanti Carlo. Ciao Fra, ciao Damiano e tutta la truppa, già ci sentiamo e ci vediamo, ciao. Fanno voi. Ehi, lasciami liberare che sto scendendo, se fa qualcosa a mamma e sono impegnato un po' di tutti i giorni. Poi già ci sentiamo e ci organizziamo una pizzata, ciao. Ehi, dai, vediamo di fare qualcosa, di combinare qualcosa. Avanti ancora Carlo. Tonino se n'è andato e Natalino ci sei ancora tu? E io già ci sono. Vabbè, io devo scendere alla via per la commissione. Non a Giugana, però devo scendere. Alla CAI? No, devo buscare un po' di... Non so se te ne ho parlato. Un po' di polpa di ricci, di uova di ricci mi devono dare. Ho capito, fra. Devo ritirare un po' di polpa di ricci, uova di ricci. Buona. O te lo il barattolo. Magari. Insomma, la bottiglia del Campari, 12,50 €. A me un portatore se me la davano oppure un barattolo, e sta sicuro che non ci mettevano le uova come fanno certi per allungarle eccetera, non lo so, a me oppure me le davano, ma tempo fa, non adesso. È tutto aumentato, prova a chiedere, ancora ce l'hai quel contatto? No fra, no, perché venivano loro, già te ne servono uova di riccio, oppure te ne serve il pesce, capito? E me lo portavano lì i negozi. Quindi, oggi il prezzo è quello, meno di così non credo che ce ne sia, non lo so la verità. Però l'importante è che siano buone, dai, che quando le mangi non ti facciano male. Io mi ricordo anni addietro la compravo anche a barattoli grandi, tipo quello dei, come si chiama, della polpa per fare il sugo, da 800 grammi. E però a volte mi hanno fatto male. No, come vai? Mi piace la pasta e anche la pizza con la polpa di riccio. Pasta, crostini, un po' di tutto, dai. Marco, ci sei? Negativo. Che ci è rimasto? Carlo? Sì, già sono qua, Fra. E niente, mi siamo rimasti io, tu, Natalino, Gianni, Tonino mi sa che è andato a fare qualcosa. E niente, anch'io sto facendo qualcosa al computer, stavo per spegnere, stavo inviando una cosa a Lucariello e ho finito per oggi. Oggi sei libero? Oggi sì, però domani mattina devo rientrare presto purtroppo, alzataccia alle 4:30 e vabbè dai, poi già faccio 4 mattine e 4 sere. Io ormai sono sempre lì, almeno domani tocca fare doppio turno perché manca un collega, quindi sono mattina e sera. Ho capito. No, noi doppi turni, per carità, ci mancano solo quelli. Adesso c'è tutto questo problema della continuità che ad Alghero praticamente non hanno partecipato né Ita né Volotea e hanno fatto un altro bando a parte, ma la comunità europea ha detto di no, quindi si stanno tutti bisticciando. Ita è rientrata a fare la proposta, adesso prima non l'ha fatta, adesso l'ha visto che c'era Aero Italia che l'ha fatta e quindi insomma è un casino e non si capisce più niente. Speriamo che ne esca qualcosa di buono, per noi almeno, dai. Visto che ogni volta abbiamo uscito fuori è un salasso, porca miseria. Esatto, no, speriamo che facciano qualcosa alla regione, perché non è possibile che chi è in Sardegna venga penalizzato. Siamo in un'isola, abbiamo tenuto l'insularità, l'hanno voluta inserire anche nella Costituzione italiana, ce l'hanno riconosciuta, però di benefici non ne abbiamo niente, però le tasse le paghiamo come quelli di Milano, come quelli di Roma, come quelli di Napoli, capito, che hanno tutti i servizi, hanno treni, hanno aerei, hanno navi e tutto quanto. Noi invece treni fanno pietà, le navi per carità, dobbiamo stare 7-8 ore in mare per raggiungere il resto del territorio, e gli aerei, che dovevano essere la prima via di comunicazione, ce li stanno tagliando. Per i treni la colpa di Franco. Insomma, non tanto di questi piccoli, cioè Sassari Alghero, per andare a Cagliari, 4 ore è una cosa inammissibile, boh, quanto ci mette? 3 ore e mezzo. Quanto la prossima? Pensavo che fosse anche 5. Dipende, secondo lo sbaglio che fai, prendi quello che fa tutte le fermate, guardi, a volte devi cambiare, scendi da Chilivani, cambi treno, gente che sbaglia treno, guarda, un casino. Esatto, perché c'è quello regionale che fa un sacco di fermate, devi cambiare, invece c'è quello diretto che magari fa un po' prima, ma devi stare attento facendo il biglietto e anche con le tariffe. Io ho beccato il giorno che c'era il venerdì nero, Black Friday, invece di pagare 30 euro andata e ritorno ho pagato 14, c'era lo sconto, sono andato a fare la visita per l'azienda, la visita medica del lavoro. Capito. E allora buono, dai, quando ci sono gli sconti ben vengano, ma non è sempre così purtroppo. Vabbè, no, non pago io, paga l'azienda, se poi io lo presento in ufficio mi danno il rimborso poi in busta paga, dai, io anticipo e basta. Sì, ho capito. E addirittura si parlava tempo fa anche di costruire un treno veloce che da Sassari collega all'aeroporto e poi anche Alghero, un treno a idrogeno, e pare che ci siano anche pronti i finanziamenti, però i finanziamenti ci sono, ma è la politica assente, se no davvero viaggiare col treno sarebbe stato un bijou. Ecco, ma quella è l'altro dove lavoro io, dai, però ripeto, magari, a me sembra fantascienza, utopia questa cosa, però come ci dici, i soldi ci sono, speriamo che facciano anche un progetto valido, dipende anche dalla regione, da tutto, dai. Speriamo. Ci sono, non lo so, non lo so, perché anche i soldi che dovevano andare alla sanità sono finiti tutti a Cagliari e qua non hanno dato nulla. Sembra che sia in discesa quest'isola, i soldi vanno a finire sempre giù. Sì, ma anche quando li danno per fare, non hanno idee qua, capito? Ci sono tante strade, le avete apposte tutte a buchi che non si potevano passare dai buchi che ci sono, e non hanno mai idee per come amministrare questi soldi che danno dalla regione. E poi li perdi, una volta che li perdi non li vedi più quei soldi, non ti finanziano più un'altra volta lo stesso tipo di lavoro che tu non hai portato, cioè non hai neanche iniziato praticamente. No, perché se non presenti i progetti poi vanno a finire dove hanno già presentato il progetto di qualche cosa, quindi li mandano lì, è normale. Avanti Carlo. L'altro giorno, già che mi stavi parlando delle gallerie, ieri ho sentito che oggi è 26, no, ieri 26 erano chiuse in una certa fascia oraria perché dovevano completare l'impianto di illuminazione, le gallerie del Giosca, no, sulla 131, perché sono passato domenica e sono uscito fuori, rientrando anziché fare scala di Giocca ho tirato dritto, e lo stesso è sempre c'è una corsia solo per diciamo per senso di marcia, capito? Ancora c'è una galleria dove non si può passare, quindi spero che finiscano, perché lì sono davvero adesso più di un anno così. Ed è pericoloso lì, perché le macchine magari che non lo sanno che sono questi lavori, magari tirano vasini anche pericoloso. Io una volta ho assistito a un incidente al ponte Rosello, che avevano ristretto le corsie così. Questa qua non lo sapeva, è andata a controsesso e si è sbattuta con una moto di quelle grosse. Questo ragazzo che gridava con la gamba rotta. E ho chiamato l'ambulanza nostra perché ci avevano chiamato perché c'era un tipo che si stava buttando dal ponte e l'abbiamo bloccato. E nel momento è successo questo incidente, questo qua che si stava buttando dal ponte si è messo a fare il vigile, guarda, era fuori di testa. E praticamente questo ragazzo, poi l'abbiamo caricato in ambulanza, l'abbiamo portato in ambulanza, ma le grida di questo ragazzo erano sovraumane. Non credo, secondo che colpo ha preso e si è rotto la gamba, già lo credo che grida, fa malissimo, poi traumi così da schiacciamento, per carità, meglio non provarli mai. Una moto grossa era, al minimo che pesava erano 200 kg quella moto. Avanti sul 10, ma io sento sempre qualcuno che chiama, avanti sul 10. Sono Splat. Un po' di propagazione. C'è propagazione sull'11. E chi c'è? Boh, non so, sta parlando in lingua, forse inglese, boh. Tutta la sera così sono, in tutti i canali c'erano inglesi, c'è la propagazione, non so se sia proprio l'Inghilterra, però in qualche nazione parlano l'inglese. Non era che forte, cioè, a sentirlo forte io era tipo 7-8. Forse sono dall'11 gli americani col Super Bowl. Sai, quelle modulazioni sparatissime che splatterano 5 canali per lato. Sull'11 sono. Sì, si sentono chiari. Sì, pensa che sono a migliaia di chilometri quelli, immagina quelle bestie quanti kilowatt stanno usando. Ma è anche la propagazione che ti aiuta, Marco, se so se ti apro, proprio le cose della propagazione proprio. Vabbè, se vogliamo provare a farci il BX, andiamo sull'11 e proviamo. Già vi sento da domani. Piuttosto, avete sentito Franco California? Sì, l'ho sentito stasera io. Vabbè, gli devo dare due parametri, uno di questa radio e uno di uno scanner. Se li memorizzava. Ah, ho capito. Cazzo, poco fa era 9:20, 9:30. Senta, non va bene. Ci stiamo splatterando. Sì, li sento anch'io, figurati. Ma poi visto come parlano, sembrano sciuglilingua quello che fanno, sembrano una specie di filastrocca. Praticamente dovrebbero essere tipo i camionisti come il 45 nostro, una cosa del genere. A te poi c'è Emanuele. Ha giudizio, manco male che io faccio l'antenna al dottor Ulitto, che non mi sblatterezza, buonasera a tutti comunque. Ho sentito un po' più basso di ieri, hai toccato qualcosa sicuramente. Ben entrato. Te lo vendo, compro, eccetera, eccetera. No, capito, la massa vi sente, siamo modulati con Franco. Io ti ho salutato e ti ho rilanciato. E tu Gianni cosa hai detto? Ciao, ben sentito anche a te. Ho detto che c'era la radio vintage, se ti può interessare, in quei siti dove mettono compro, vendo, scambio, quella roba lì. Ma tu quanto le vuoi pagare quelle radio? Non lo so quanto costa. Io le prendo a 50 euro. E allora sei lontano da quello. Mi avrei da dire che rimane a sfida. Cala, va bene, va. Io te lo volevo dire da ieri, magari ti interessava. Comunque domenica ricordatela andare. Domenica ci vale, in piazza d'Italia mi ha detto già. Sì, avevano sempre fatto lì. Non sapete se fanno il mercatino dell'usato in piazza d'Italia domenica? Cioè lo fanno ancora? L'hanno sempre fatto, poi non lo so. Non mi ricordo, prima lo facevano in piazza Santa Caterina, però poi con la pandemia forse avevano bloccato tutto. Poi l'hanno fatto a domicilio, poi in piazza d'Italia. Da poco neanche io ne ho visto in piazza d'Italia, è da poco. Salutatemi Emanuele, che non è comprensibile, è praticamente a livello del QRM. Salutalo tu già, perché non so nemmeno se mi sente. È strano perché un giorno era Santiago Otto, un giorno è arrivato Santiago Otto, quindi se lui tocca, sposta appena l'antenna, magari riesce a arrivare anche qua. Vede che già lo sento io, salutata Marco. Ti saluta Manuele, ha detto che ti sente Marco. Magari lui ha meno QRM, io qua, te l'ho detto, da quando c'è il ponteggio c'è un abulotto di QRM elettrico e in più c'è una portantina con un bip finale, o è qualcuno che non esce di radio. Ma ti hanno rotto il cavo, quanto ho capito poco fa. A me sì, i muratori hanno tagliato, dice, ma tu hai detto che al momento non lo stavi usando e credevano che fosse roba da rimuovere, cioè non sapevano nemmeno che cavo fosse, potrebbe essere anche un cavo elettrico, grosso com'era. Cavolo, e adesso come fai? Te lo compro nuovo? Ah, io gli ho già detto che glielo tolgo dal saldo, anche se loro dicono, questo non lo può fare. Allora voi comprate il cavo, me lo cambiano, date, me lo cambio io, però non devono mettere più mano, anzi quando arrivano li diffido a toccare, non devono toccare più niente, non mi interessa, se fanno il gabbiotto lo facciano senza togliere né staffa né antenna né niente. Ma vado avanti, come si permettono questi a tagliare? Non è solo qua che l'hanno fatto, anche in altre occasioni, in altre QTH, loro se sanno che devono tutto rinnovare, tutto, sfasciano tutto e poi dicono, ma qua noi sapevamo dover togliere tutto, anche se c'è la centralizzata, a me cosa mi ha fatto la centralizzata? Io ho l'antenna sul terrazzino, prendo tutto perché Montero è davanti, quindi non ne voglio centralizzata, non mi interessa, se la metta chi ha interesse a averla. Sì, ma scusa, mi avvisi, magari salgo, stacco il PL nel frattempo finisco i lavori e poi me lo riattacco, non è che mi tagli il cavo. Gliel'ho anche detto, se avete necessità di avere libero, lo ammattassate e ve lo legate al ponteggio, però lo fanno loro, io non tocco niente al ponteggio. O lo mettete in fondo o in fondo nell'angolino e niente, tagliato. Si può essere più. Quindi come l'hai aggiunto adesso? Ho messo il barilotto, PLP era il barilotto doppia femmina e mezzo, quando sarà passata l'onda barbarica dei muratori metterò lo straniero col vulcanizzante. Lo lasci sempre così però, col barilotto? E presumo, perché ho una giugana di andare, ricalare il cavo nuovo, eccetera. Poi se me lo pagano bene, se no pazienza. Comunque non credo che ne cambierò cavo. Non ne ho proprio voglia. Oppure gli faccio la caramella per stagnarlo. È presente, pezzo di camera d'aria e stretto bene con le fascette ai lati. Ma non è meglio togliere tutto il PL, fare le saldature e poi vulcanizzare? E volendo, ma in una posizione, è stato tagliato in una posizione così stronza, sulla verticale, cioè non viene bene lavorarci, è un macello. Vedi tu, dai, avanti Gianni. Appunto, secondo me è meglio aggiungerlo che metterli il PL che li fa perdere il segnale. Cappa. Ma sarebbe, l'unica sarebbe cambiarlo, solo che Marco è peggio di me, quando succedono queste cose, mamma mia, rompono un vero e palle. Vabbè, vedrà lui adesso. Ma stai facendo bene lo stesso, Marco, non ti disperare perché è bene lo stesso. Avanti Carlo. Sì, va bene, Marco, però anche io ho lo stesso problema, tra un po' perché devono mettere le mani al tetto e ho paura che se questi si trovano il cavo che taglino pure. Infatti per evitare quello o ripiego tutto e poi quando finiscono lo ributto giù e farò così sicuramente. Sì, ma non è modo di fare perché sto vedendo un cavo nero. Potrebbe essere anche un cavo della corrente, cosa vuol dire? Ma vabbè. Sì, a calare il cavo perché dovrei togliere tutto il coso stagnato, PL stagnato. Sai come sarebbe bello giuntarlo, così si dice. Fare quella cosa che un radioamatore praticamente ti fa vedere come fare, a parte il centrale, per ricreare diciamo la calza, usare un lamierino di rame, saldarlo bene per il perimetro, insomma fare un lavoro come si Dio comanda, però io non credo di saperlo fare. Si può mettere anche il vulcanizzante, l'autorestringente e poi il vulcanizzante sopra. Ah, vabbè, lasciando, sì, quello poi, però tanto vale meglio lasciare il barilotto, mi già. Alla fine non credo di aver perso un granché, ma a livello di decibel, che ne so, di frazioni di decibel, pazienza. Sì, adesso perché è nuovo, ma poi inizierà a fare un po' di condensa all'interno, un po' di ossido. Ti dà problemi per il barilotto? Vabbè, io naturalmente lo asciugherei benissimo prima di fare di stagnarlo, lo asciugherei bene, se c'è da CRC mettere lo metto, CRC asciutto però quello proprio, e poi stagnare subito, tipo quando verrà la primavera, e non so quando finiscano questi, no? Non ci vedono più da Natale, sono spariti. Oppure devi fare la muffola? Magari non vi so dirà, comprare la roba lo stanno continuando. Sì, ma dico, poi cercando di sgattaiolare per 125 euro, ho fatto il conto, da Media Globe, RG 213, con la spedizione, 125 euro in monetine. E anche lì, ma qua, ma là, io non ho colpa, lei non ha colpa, nessuno ha colpa e nessuno paga. Cioè, non mi hanno dato soluzioni, non me ne hanno date, capito? E gli dico, poi se gli piace hanno letto, il saldo lo vuole, tolgo 125 euro, se lo vuole bene, se non manco quello vede. Mi puoi denunciare? Sì, così siamo 20 anni in casa per 100 euro di cavolo a Natale. Io li avrei denunciati comunque, perché ti hanno fatto danno, e li avrei costretti a mettere il cavo nuovo. Vabbè, però tra il dire e il fare, Natale, c'è in mezzo al mare. Va bene. Cacchio, io devo andare a mettere la moto dentro, devo fare anche un'ultima commissione col freddo che c'è. Mi sa che comincio, dai. E se no gli bruci il saldo, quando vengono a chiedere i soldi, il capo portatemi la vetina, e allora quando mi portate il capo vi do i soldi. Sì, ma poi credo che non mi sappia, dice no, ma magari ce l'abbiamo noi quel cavo, glielo diamo noi. Non mica non è un pezzo di filo elettrico mio, non è un pezzo di filo di rame, no. È un cavo coassiale. Non... Vabbè, lasciamo stare, dai. Franco, riprendi. Vai a spiegare questo qua. Vuole anche nel, come si dice, con gli ohm giusti, 50 ohm. Non è un cavo d'antenna di parabolica, no? Comunque, come diceva Carlo, speriamo che appunto non tocchino su con la scusa di fare questo schifo di Torino si chiama, sì. Cioè, dico di non togliere zanche né niente, di lasciarla com'è e lavorarci intorno, cosa fattibilissima, perché io non ho voglia poi di tanto se sfasciano tutto, rompono l'antenna, anche se la appoggiano così la buttano a terra e nella frutta sai, e poi mi devo rimettere zanche, palo, antenna nuova, cavo nuovo, no. Ma 110 state facendo? Cappa. Quindi anche ascensore nuovo, tutto nuovo? No, vabbè, ascensore no. Comunque sì, c'è il 110 e poi ci sono dei lavori a parte pagati di tasca da noi. E quelli che non rientrano, tipo poggioli, roba così? Sì, esatto. Buono, dai, avete fatto bene. Vedremo se ne vale la pena. Guarda, io ho colleghi che hanno già, l'impresa è già finito, l'impresa Ticca, quindi una delle più grosse qua di Sassari. Lui già in casa c'ha 4-5 gradi in più. Oh, ma speriamo. No, perché sanno, cioè, sto sentendo una magagna che prima non sapevo, tipo, prima mi hanno detto devi documentare qualsiasi fonte di riscaldamento, che fosse una stufa gas, che fosse elettrica, che fosse anche un condizionatore portatile per l'estate, una stufa vibro per inverno, tu le documenti e poi loro ti mettono sulla pompa di calore, poi gli infissi nuovi con il doppio vetro, triplo vetro, tutte quelle menate moderne, no? Adesso invece qua siamo a rischio che infissi non ne vediamo perché non abbiamo tipo una pompa di calore già installata, un climatizzatore fisso. E si dice, ma queste cose si sapevano, no, veramente a me me l'avete spiegata in modo diverso. Insomma, rischiamo alla fine che non ci mettono i vetri, a quelli ci avrei tenuto alle finestre, che sono messe un po', sono vecchiotte, sono messe male, capito? Beh, certo, è sempre meglio. Una volta che fai, devi fare tutto. Poi, che tipo di cappotto state facendo? Quello ventilato o quello normale? Quei pannelli attaccati direttamente sul muro? Allora, sono attaccati sul muro. Sono di quella polistirolo nero, che è polistirolo e grafite insieme. Ho capito. No, ma c'è questo mio collega, gli ha fatto quello ventilato, cioè praticamente rimane staccato, ci rimane anche aria tra muro e pannelli. Poi un bel lavoro hanno fatto, una questione pesatica, poi velocissimi. Ecco, non so perché si stanno un po' arenando, sono passate le feste, sono passati anche i giorni, non proprio tutti i giorni di pioggia, ma vedo che non si vedono, forse c'erano problemi con i materiali, con i soldi, tutto un'incognita. Comunque, se tu guardi certi video di YouTube e non dormi la notte, perché giocare, fare il centrice come giocare la roulette russa, ci sono tante cose che possono andare storte. E vabbè, non ci voglio pensare. Dai, ripetete voi, io mi faccio QRX, mi attrinzo e vado a fare questa commissione, ok? Dai, io reagirei a Emanuele. Emanuele? Ah, tu un'ultima cosa, Fra. Aspetta, Emanuele, dimmi, Marco. Ma con questo cappotto che poi isola i muri, ma la casa respira? Cioè, respiri i muri, sai, in muratura respirano, ho già capito cosa intendo. Quando tu sei isolato con questa plastica messa fuori, non è che ti si forma condensa eccessiva in casa e non riesci a smaltirla, allora bisogna aggiungere pure un... quella roba che è... vabbè, deumidificatore. In teoria è meglio il cappotto ventilato, quello che ha fatto mio collega, perché il muro respira. Questi bisogna vedere, in teoria, cioè, non c'è più il ponte termico, dovrebbe andare bene, anche se poi dai poggioli qualcosa di freddo entra sempre. Ah, ok. No, è una cosa che mi avevano detto, no? Appunto, per quanto riguarda l'umidità residua che c'è in casa, vabbè. Già ne riprendi, quelle sì per me, dai, vado direttamente. Ciao a tutti, buona serata, ci sentiamo. Ciao Marco, dai, buona spesa, buone commissioni, dai. Ci sentiamo magari dopo se rientri. Vai Carlo. Ciao Marco, ma la Vitruvius, sai, di impresa che ti sta facendo il lavoro? Purtroppo no. Gianni, ti mando un messaggio dopo. A proposito dell'impresa. Cappagatto. Ma io non voglio fare, non ce l'ho il malaugurio, ma ho visto che a cosa? A Milano quel vento ne ha stracciato tutti i pannelli di questo palazzo che aveva appena fatto. Ho l'impressione che se lasciano lo spazio tra il muro e i pannelli si formi una camera d'aria e faccia lo stesso effetto anche dove l'hanno fatto così. No, ti ha fatto bene, non entra, perché va tutto chiuso, capito? Una bassa. Riprendi, Emanuele. Ok, dai. Vabbè, comunque se il cappotto è fatto bene, non dovrebbe... A parte che anche io ho... O hanno fatto il cappotto qua, non ha fatto altro, sono io, è costruito. E quindi freddo freddo non ce n'è, è isolato dal freddo. E ci sono diffusi dalle ventilazioni per respirare il muro, non fanno così, chiudono la via dicendo, no, fanno le ventilazioni per respirare il muro, fanno le bocchette. Emanuele, ti capisco, ma rispetto ai giorni scorsi la radio è molto bassa, radio e segnale, forse l'antenna l'hai toccata, l'hai spostata. Ti ho sentito adesso con questo passaggio, ma se sale il QRM non ti sento più. Emanuele, anche lì ci hanno cambiato da te? No, solo il cappotto, hanno fatto solo il cappotto e il tetto. Il tetto è visto com'è, ma non passi, si vede che è lamiera. Ah, l'hanno fatto in lamiera? Ed è lamiera. La lamiera l'hanno fatto 35 anni fa e della lamiera l'hanno rifatto. Ah, ecco. Quindi si dice invece non fai a sasso. Ah, per quale te lo sto dicendo, non puoi salire, non c'è neanche la moto a far salire su. Boh, se si dovesse succedere qualche cosa sul tetto come ci vai? Boh. Vabbè, tutte cose strane che fanno. No, da noi è già facile. Arrivi all'ultimo piano, c'è la porticina, giri la chiave e sei sul tetto. Anche qua, anche qui, salgo su che sono il magazzino su, no? All'ultimo piano. Solo che c'è... ci sono le finestre, però non ci sono non c'è la botola per salire su, quella non l'hanno fatta, capito? Quando devono fare qualcosa devono chiamare la scala aerea. E sono spese grosse quelle, caspita, la scala aerea la paghi. Avanti, signore Carlo, avanti. A noi già stanno procedendo col cappotto, ma già lo attaccano bene, maledizione, non è che si stacca, usano questa specie di collante che è micidiale, perché ho provato a staccarlo dalla ringhiera un pezzo e ho faticato, quindi penso che non lasciano spazi, capito? Quando lo appiccicano, praticamente se loro trovano, come era la nostra, una facciata ruvida, allora lì penso che si attacchi talmente bene che ci vorrà un bel po' prima che si stacchi. Poi ho visto che lo congiungono bene, non lasciano spazi vuoti né posti dove il vento può entrare, quindi fare pressione, quindi staccarlo, no? Penso che quello sia difficile. Già sigillano tutto, maledizione. Poi a ogni piano, visto che mettono delle stecche d'acciaio sotto per tenere, non penso che sia così. Da noi praticamente hanno fatto già quasi tutta la facciata della parte posteriore. Ho visto che hanno scaricato dei barattoli di tinta, adesso dovrebbero iniziare a tinteggiare. Poi ci devono ancora cambiare le finestre, penso che stiano già iniziando a mettere mano al tetto anche, perché magari il tetto lo smantellano quando sono sicuri che magari c'è una settimana che non piove, eccetera, perché sennò fa danno a chi abita sotto, capito? A meno che non abbiano teloni o cose del genere, però sempre meglio farlo col tempo buono il tetto. Certo. Vabbè, quando cambiano le finestre ci vuole sempre gente in casa, perché sennò fate dei rischi di biasi. Esatto, sì, da noi fortunatamente dove passa il mio cavo non passa sulle tegole ma sul piano di calpestio, dove non c'è il tetto, no, ma è diciamo si può camminare. Però la mia paura è che facendo le lavorazioni sulla facciata dove c'ho la discesa, no, che lì magari me lo è esterno il filo, però è all'interno del cortile, quindi proprio nell'angolino, nemmeno si vede, però ho paura che lo sporchino tutto quanto, capito? Allora lo dovrò ritirare quando fanno quel pezzo lì e poi calare quando finiscono. A casa, diciamo, dove c'ho l'ingresso nel muro, lì avevo provveduto a togliere il filo, infilare un corrugato grosso e praticamente mi passa il cavo grosso, l'RG213 col PL attaccato nel corrugato, perché ho messo quello da 18 o 22, adesso non mi ricordo da quanto, comunque passa dentro il PL col cavo attaccato, quindi non devo neanche togliere e dissaldare il PL quando lo farò. Vediamo un po', speriamo che finiscano così e ci leviamo la scocciatura dei muratori almeno, ma a questo punto finiranno a tarda primavera, immagino, maggio, giugno pure, perché da fare ne hanno parecchio, ci devono cambiare l'ascensore, devono fare il fotovoltaico, cambiare gli infissi, fare l'altra parte della facciata e tutto il tetto ancora, quindi lavoro ne hanno parecchio. Vai Gianni. Non già fanno un lavoro di squadra, dai, quindi ci mettono poco. Io ho un amico che ha fatto fare questa lavoro, hanno messo gli infissi, ha detto che sono entrati in casa sua e hanno messo gli infissi in un giorno in tutte le camere, immaginati tu. Erano i 6 e hanno fatto lavoro veloce. Sono rientrato, eh? Avanti. Fanno in fretta perché cosa fanno? Tolgono le ante vecchie e praticamente il telaio nuovo lo inseriscono sopra il telaio esistente, tolgono le cerniere, le vecchie cerniere, ecco perché fanno in fretta. E se è fragile il telaio invece? Vai, deve essere in buone condizioni. Cappa. Sì, vabbè, come fanno quelli che fanno i pavimenti nuovi, li mettono sopra l'altro pavimento, se è fatto male il massetto dell'altro pavimento, decide di tubarlo in uso. E ormai vendono l'autolivellante, praticamente è tipo acqua lì, tu lo butti e si crea, poi diventa tipo resina, trasparente, però diventa perfetto a livello, perché l'acqua si livella da sola, no? Ho capito. Vabbè, da noi per dire, quando ci hanno consegnato le case, c'erano tutti, praticamente io ho comprato nuova la casa, sono stato io il primo che sono andato a abitare, e c'erano tutti gli spacchi nelle mattonelle. Probabilmente cosa è successo? Anzi, all'inizio non c'erano, poi sono venuti, perché cosa hanno fatto? Hanno fatto male il massetto dove passano i tubi del riscaldamento, ha scaldato lì, e le mattonelle si sono scese e si sono spaccate tutte filate. Infatti in sala ho dovuto mettere un tappeto grande per non vedersi le filature, se no mi toccava rifare tutto il pavimento. Perché poi c'è la dilatazione, il caldo dilata, capito? Magari a fianco è freddo e succedono i patatrac. Purtroppo, vabbè, siamo stati 5 minuti perché avevamo l'assicurazione per 20 anni, ho messo l'assicurazione per 20 anni, sin quando pagavo il mutuo, capito? Quindi ho fatto l'assicurazione per la casa, per ogni cosa, incendio, qualsiasi danno, qualsiasi cosa pagava l'assicurazione. L'ho pagata tutta in una volta, perché così me ne è uscita da mezzo e non c'avevo quello da pagare, c'avevo già il mutuo da pagare, quindi per uscirmene da mezzo l'ho pagata tutta in una volta, invece pagarla mese per mese. E così potevo chiedere risarcimento all'assicurazione, non ci ho pensato. Se mi ricordo, mi sa che fosse proprio obbligatoria, quando tu stipulavi un mutuo, era proprio obbligatoria l'assicurazione, se non vado errando. Manuele, ci sei? Sì, Francia, ci sono. E comunque, niente, comunque quella roba lì, sì, è utile che fanno il cappotto, però il leno si entra sempre, perché fa sempre condensa nella facciata, anche se hanno fatto il cappotto. Io ho notato che più la casa è ermetica, cioè più metti dopo i vetri e più magari fa condensa un po' all'interno, perché un po' d'aria ci vuole. Sì, fa condensa, esatto, fa condensa, il muro te lo fa nero lo stesso, te lo fa lo stesso, anzi forse te lo fa peggio di quando non c'è il cappotto. Sì, io a volte ho quasi tentato di fare sui cassettoni delle prese d'aria, diciamo mobili, che io posso aprire e chiudere, proprio per cambiare un po' d'aria. A me me lo fa nella veranda d'inverno, me lo fa tra il caldo e il freddo, ma io ho doppi vetri in tutte le camere. Anch'io, però io ho visto qualche macchiolina da quando ho cambiato tutti gli infissi, che qui non passa più aria, no? Invece prima con le finestre vecchie o qualche tipo non c'era, sì, magari consumava un po' più di riscaldamento, però la casa forse era più sana. Fatta la legge, ho trovato l'inganno, sempre più. Adesso dice che vogliono obbligare a mettere le case tutte a norma, capito? E anche queste case vecchie che sono nate in una certa maniera devono fare tutti gli impianti elettrici, nuovo, tutto qua. Beh, quello io me l'ho fatto io per sicurezza l'impianto, quando ho comprato ho tolto tutto, c'erano ancora quei cavi rigidi, figurati, quindi ho sfilato quelli lì mentre infilavo gli altri. Ho capito. Ma diciamo che non puoi obbligare le persone a fare lavori fuori nel loro budget, capito? Perché ci sono persone anziane che hanno una casa, diciamo, già di anni. Sei obbligato perché se no ti mettono multe esorbitanti. Ma speriamo che non passi questa legge, non lo so. Cioè, è bello avere la casa a norma, sei più sicura, però se uno non può, o dai finanziamenti, per almeno per chi c'è un reddito basso, un aiuto ci vorrebbe. Ma appunto, ci sono persone anziane che prendono 400 euro di pensione, non è che possono uscire, diciamo, da quel budget lì. Dai, io ne approfitto, vi saluto che devo scendere ad Alghero, se no poi faccio tardi. Dai, un abbraccio a tutti, ciao Manuele, ciao Natalino, sei ancora all'ascolto, ciao Carlo, che altro c'era? California, non so se sia andato via, Marco se sei ancora all'ascolto, riprendi già. Sì, dai, ciao Fra, a lavorare se no? No, ti ho detto, devo ritirarmi quella roba là, la polpa di Ricci. Ah, stai andando tu, pensavo te la portassi, va bene, ok, dai. Andare, Fra, fatela buona, dai. se ti vuoi mettere la radio in macchina, magari ti facciamo compagnia. Non so se scendo con la piccola, però forse scendo con la piccolina, che è già sotto casa, capito? Ah, capito, va bene. No problem, avanti Carlo. Ciao Franco, ciao. Quando fai gli spaghetti con la polpa di Ricci fai un fischio, già veniamo con Gianni. Dai, mi penso, dai. Quanti ne stai prendendo di baratto di fra? 5, 4 sono per noi e uno ci ha chiesto un'altra persona. Che più da baratto? Facevo tutto bella ambrosia, bella cremosa. Ma se mi avete scaccato a Manuele, non ho capito. Ah, non fa 20, 15, 15, 20 euro apparato. Mi sta andando a 12,50 euro. Allora è buono, perché di solito da 15 a 20. C'è la bottiglietta del Campari, non so quanto contenga la bottiglia del Campari. Esatto, e cosa c'è contiene? Sarà brutto, non lo so, comunque sei lì, 15 euro di roba. Comunque da questi sono i prezzi, ad Alghero, mi stanno buscando ad Alghero, dai. Dai, un abbraccio a tutti. Cioè, a me vanno in quei barattoli dei sottacetti, ma quelli piccoli, non quelli grandi. No, non so. Spero che non abbiano sapore di campare, Gitti. Sono di ubriacheggio. Ciao, ciao, avanti Carlo. Yeah. Ciao Fra, ho detto quando la prendi che fai gli spaghetti con la polpa di Ricci, chiamaci con Gianni, già veniamo a mangiarla. Al massimo vi posso pensare, dai. Va bene, va bene. Ciao, ci sentiamo Fra. Ciao carissimi, ciao. Già la becchiamo. Vabbè, anche io per i Ricci sono fatti apposta. Invece da altre parti stanno regolamentando sempre di più la pesca dei Ricci, perché dice ne stanno rimanendo pochi sui fondali della Sardegna, capito? E quindi vogliono bloccarla del tutto la pesca. E adesso più di tanto non le puoi prendere, devi avere i permessi, non è così, no. Non è così, adesso chi non c'ha il permesso non li può prendere. Lo so, e quello è quando si esagera, che poi disperdi tutto e alla fine, capito, la pagano tutti quanti. Purtroppo è così, perché non c'è mai uno che si sa moderare, e quando vai a prendere ne prendi 100, ne prendi 1000, ne prendi 2000 e non ti fermi più. Invece prendine pochi, quelli che ti servono a te. Invece c'è la mania di fare le scorte nel freezer o di vendere, eccetera. Invece ognuno poteva andare a prendersi un certo quantitativo minimo per farci una spaghettata, appunto, e basta. E quindi alla fine, se regolamentano tutto, magari non se ne troverà neanche più da acquistare così. Io prima li acquistavo anche alla Cobbe, che mi ricordo gli appascoli che li vendevano, li portavano a Cagliari, già confezionati nei barattoli, li vendevano così. Mi pare che costassero una decina di euro. Però fortunatamente se li ho presi anche 8 euro, me lo ricordo bene. Venivano e dicevano, già guarda che sono quelli buoni, io non li muovo, non li metto di uova, c'è gente che ci mette le uova per allungarlo. Ho capito, sì. E infatti bisogna essere sicuri che quello che stai acquistando è fatto bene, pulito, e che è quello che stai acquistando, perché qualcuno ci mette anche altra roba, già è vero quello. E il tonno dell'uovo ci mette, non sarà una cosa schifosa, però non è mai polpa di Ricci. E anche pizzeria mi piace molto, è la pizza con il polpa di Ricci. La polpa di Ricci mi piace molto. E la prendo di solito lì a San Gavino, a Porto Torre, se lì la fanno molto buona. Emanuele. Manuele ha chiuso invece. Io non lo sento più. Che ore si sono fatte? Che sono al buio. Sono le 19:10 e mi sa che anche io adesso chiudo, perché ci siamo un po' da presto stasera. E vabbè, dai. Ciao, va bene, dai. Siamo rilassati. Interessante che si stia tranquilli. Si facciano discorsi tranquilli, dai. Già lo credo, già. E cosa ci dobbiamo azzuffare per radio? No, quattro chiacchiere tranquille già si possono fare. No, niente, io adesso mi sa che mi sto guardando intorno, chiudo e non so se poi c'è lo spazio, perché stanotte me ne voglio andare anche a letto presto, quindi quindi voglio cenare un po' prima, domani c'ho il turno presto, alle 5 devo essere già all'aeroporto, quindi neanche televisione mi guardo, quando c'ho i turni la mattina presto così non fa, massimo rimango sino alle 10 meno un quarto, massimo le 10 e poi me ne vado a letto. E che ora ti lascia alle 3? No, mi metto la sveglia alle 4, mi lavo, mi vesto e in 20 minuti faccio tutto, alle 4:20 e 25 sto uscendo, poi in 5 minuti sono giù a Predanietta e poi da lì in altri 20 minuti sono all'aeroporto, alle 5 meno 10 sono sempre là, timbro sempre a meno 5, meno 7, capito? Che già va bene, si è già calcolato i tempi che ci vogliono, vabbè, quello lì non c'è nemmeno traffico, già si viaggia veloce. No, niente, qualche volta che entro alle 6, che c'è il turno delle 6, allora se sbaglio e non faccio il ponte nuovo, eccetera, puoi trovare, che ne so, il camion della nettezza urbana che blocca il traffico perché magari si ferma in mezzo strada a scaricare i cassonetti e quindi blocca un attimo il traffico, ma tutto al più per di 3-4 minuti, non di più, la mattina presto, perché anche loro iniziano molto presto a lavorare. Lo so, già li sento i rumori quando passano sotto casa, non hanno molto garbo, cazzo si le brom brom brom, buttano i cassonetti, li sbattono, a volte non li mettono manco il freno, quando c'è il vento partono questi cassonetti, si sbattono alle macchine, è di tutti i colori. Lo so, purtroppo anche qua succede, quando fa molto vento, se ce n'è qualcuno non frenato, si mette a camminare e qualcuno l'ho visto addosso alle macchine più di una volta. Oppure si girano e esce tutta la... si apre, vabbè, quello non è colpa loro, si apre la parte di sopra, esce tutta la mondesa, tutta sparpagliata nella strada. Quello quando fa molto vento, capito, già può succedere, perché molti non si chiudono bene, rimangono semiaperti, soprattutto quello della carta che viene utilizzato molto, quello della plastica, per cui il vento lì, diciamo, ribalta il tappo e molta roba esce fuori, capito? Già ho visto, a volte fa disastri il vento. Per non parlare a Porto Torres che fanno quella porta a porta, tutti i contenitori della mondezza, tutti volano da tutte le parti, nei tubi da tutte le parti, quando fa vento lì è un casino. Fabio Carlo, dai, ti saluto se stai chiudendo e ci sentiamo. Buon lavoro quando vai per domani, vai. Ci sentiamo, ciao. Via Gianni, alle prossime. Ciao Natalino, se sei ancora in ascolto, Claudio e chi altro ci sia in ascolto. Buona serata a tutti, alle prossime. Capo, saluto anch'io tutti gli ascoltoni.